La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola. Torniamo questa settimana nel mondo delle scuole per l'infanzia, o scuole materne, come si chiamavano un po' di tempo fa. Oggi il nostro interlocutore è Ugo Lessio, presidente della FISM di Padova. Ben trovato. Buongiorno. Parliamo con lei innanzitutto del recentissimo dicembre 2016 rinnovo del contratto nazionale, che era un contratto che insomma aveva una certa anzianità, no? Sì, era un contratto triennale che scadeva il 31/12/2013 e quindi già aveva avuto una proroga di 3 anni, quindi effettivamente c'era una normativa vecchia di 9 anni. Ed era necessario anche aggiornare la parte economica, evidentemente. E appunto su cosa avete lavorato? Mi pare un anno di lavoro di trattative, quindi cosa ne è uscito alla fine? Sì, sono state contrattazioni abbastanza difficoltose per 2 motivi. Primo è che siamo nell'area delle scuole paritarie, che come sappiamo sono questioni abbastanza complicate dal punto di vista politico, sia perché c'è la legge della buona scuola che non le ha molto considerate, nel senso che non ha avuto all'interno della buona scuola uno spazio particolare, sia perché abbiamo purtroppo la grave situazione della denatalità, che sostanzialmente viene pagata dalle scuole paritarie. In sostanza, meno bambini, meno sezioni, meno scuole. Quindi la doppia necessità di aggiornare la normativa, ma tenere conto la sostenibilità economica di questo nostro mondo, che è ricco e poi sempre importantissimo. Ecco, nonostante gli aumenti, lei mi può confermare che comunque il contratto dei nostri docenti rimane un po' più basso rispetto a quelli di scuola statale? Sì, la classifica, diciamola così, dei 4 settori, perché ci sono 4 contratti che gravitano su questo altro settore: c'è il contratto dello Stato, quello degli enti locali, perché anche molti comuni in Italia, il 15% dei bambini dei 3-6 anni vanno alle scuole comunali, area per esempio Emilia Romagna è molto ricca di scuole comunali, anche a Padova ce ne sono una decina. Il contratto della FISM e il contratto dell'ANISEI sono questi due di area privata, diciamo. Ecco, la FISM è quello che si riferisce all'area delle scuole di ispirazione cristiana, l'ANISEI è quello invece dell'area privata, che fa riferimento alla Confindustria. Bene, la graduatoria è proprio questa: statali hanno 10% in più di quelle dei comunali. Noi abbiamo come FISM il 20% in meno economicamente rispetto alle statali, l'ANISEI ha qualcosina in meno di noi, sono noi, ci collochiamo grosso modo alla metà, parte bassa della parte economica. Se parla di 150-200 euro al mese di differenza tra una maestra della scuola FISM da quella della scuola statale. Ecco, non bruscolini come si potrebbe dire. No, non bruscolini, effettivamente. Comunque questo contratto è stato rinnovato, mi pare siano circa 2.000 persone, perché parliamo di docenti e personale ATA? Sì, allora se noi parliamo di livello provinciale di Padova sono 2.000, se siamo nel Veneto siamo quasi 10.000, in Italia sono 50.000, tanto per dare un po' i numeri di questo nostro settore. Ecco, la validità è il 31 dicembre 2018. Sono in 2018 con alcune modifiche interessanti, che adesso magari ne parliamo. Ecco, allora ne parliamo subito. Quali modifiche sono state introdotte? Ecco, nella parte normativa, perché il contratto nazionale del lavoro, la parte cosiddetta giuridica, normativa e quella economica, ci sono state 2 grosse novità. La prima è quella che si è tenuto conto della specificità di questi nostri enti. Sono infatti l'80% delle scuole sono dal punto di vista della quantità inferiori a 15 dipendenti, quindi noi abbiamo inteso mettere una serie di istituti che proteggano questa situazione, insomma, per dirla in breve, una certa flessibilità, quindi il tempo determinato, l'apprendistato, le forme di attività estiva, cosa che nello Stato non c'è, insomma. E quindi abbiamo proprio valorizzato questo nostro essere particolari, collegati con la comunità che ha bisogno dell'apertura prima, dell'apertura e delle posticipi. Una serie di argomenti proprio connessi alla nostra essere scuole di comunità. E l'altro aspetto abbiamo previsto, e questa è una novità assoluta, l'accordo di rete. Non vedo in molti contratti questo aspetto. C'è un articolo, il 31, che abbiamo ovviamente concertato con il sindacato, che prevede che più scuole insieme si mettono insieme per fare servizi insieme, quindi non solo acquisti ma anche l'utilizzo del personale, che per noi era impedito. Cioè, se io ho una maestra che sostiene la disabilità nella mia scuola, posso utilizzarla anche in un'altra scuola attraverso questa forma di accordo di rete. Questo un po' il sunto di ci sono anche altre novità interessanti, un po' sono collegate anche alle Jobs Act, per esempio la paternità, i congedi di paternità, varie forme di protezione, altre anche di applicazione delle norme, insomma. La parte economica ha previsto nel triennio 87 euro di aumento scaglionate sui 3 anni, cioè vuol dire che il primo anno, 2016, sono maturati aumenti per 15 euro. L'anno 2017 sono 2 scadenze, 1 gennaio, 1 settembre, e nel 2018 l'ultima tranche facciamo maturare l'ultimo aumento, che è per arrivare a 87 euro al mese, si parla delle maestre, al 1 dicembre 2018. E quindi è un discreto anche aumento, per la verità, è in linea con gli altri contratti, tipo di chimici, anche i metalmeccanici per esempio sono su questo ordine di grandezza come aumenti mensili, sono lordi. Altre novità è la previdenza complementare, che è argomento assolutamente importantissimo, cioè sappiamo bene, insomma, che ormai le pensioni cosiddette pubbliche, quelle legate all'INPS, non sono più in grado di reggere. Col tempo quindi sarà necessario favorire queste forme di previdenza complementare. L'abbiamo previsto per la prima volta che a livello regionale le FISM regionali e le organizzazioni sindacali regionali concertino queste forme di previdenza complementare con l'apporto un pochino del datore del lavoro, quindi una piccola quota, e un poco del lavoratore, quindi il lavoratore può mettere anche una parte del TFR. È tutto un fronte importantissimo che in genere si chiama del welfare aziendale, cioè tutto un fronte interessantissimo comunque. Ecco. E dunque novità importanti su questo settore, finalmente, per chi opera in questo nostro mondo, appunto, delle scuole paritarie, intendendo nostro appunto per quelle che sono vicine alla Chiesa. Per quanto riguarda invece la situazione generale delle scuole, dal suo osservatorio appunto di precedente FISM provinciale, chiusure, punti di difficoltà, cosa ci può raccontare? Sì, allora, facendo un po' di riassunto, in questi ultimi 10 anni, perché questo è il vero periodo di crisi, ecco, in FISM Padova sono chiuse 10 scuole, 3 nell'ultimo anno scolastico 2015-2016, quest'anno un po' meno. Significa che non ci sono più circa 2.000 bambini, insomma, quindi i nostri 20.000 bambini che avevamo nelle nostre 220 scuole aderenti alla FISM si sono ridotti a 18.000 e sono ridotte quindi le sezioni. Sono state purtroppo licenziate circa 150 dipendenti, perché alla riduzione delle sezioni non si poteva non operare in questi termini. Come dicevo prima, l'abbiamo pagata noi delle paritarie in questa situazione di denatalità, proprio perché sappiamo, no, che le famiglie ovviamente fin dove possono vanno alla statale, perché non pagano niente se non il buono pasto, oppure alla comunale, che anche pure quella ha situazioni economiche più vantaggiose rispetto a quella paritaria. Quindi noi abbiamo la retta, per esempio nel comune di Padova, che è circa 180 euro al mese per bambino, e alla statale non paga niente se non i 3 euro e mezzo di pasto. Alla comunale c'è l'ISE, che va da 95 euro a 145 euro al mese. Quindi quando le famiglie possono, anche in questa situazione, ovviamente si mettono in lista nella statale e nella comunale, e rimane a noi un po' la sofferenza di questa situazione demografica abbastanza strana, insomma. Quindi abbiamo sofferto sta roba qua, insomma, più in fronte della scuola di comunità, scuola di ispirazione cristiana, come diceva Don Lorenzo Celi, che citiamo perché è il nostro riferimento con certo. Diocesi, sta soffrendo la cosiddetta crisi della ragione, per cui un prete deve, o una comunità deve sostenere una scuola che ogni anno assorbe dalla parrocchia qualche migliaio di euro, perché questo è il vero nodo, no? Quindi, convincere le comunità che è un valore assolutamente da difendere per motivi non solo di servizio civile, al contrario, ma proprio soprattutto servizio di comunità, quindi dove c'è l'aggregazione, i genitori, la catechesi per chi naturalmente frequenta la chiesa, eccetera. E questo è un bel problema ulteriore, insomma, oltre a quello della sostenibilità economica. Dunque, temi molto interessanti, situazioni che spesso non si conoscono. Ringraziamo Ugo Lessio, presidente della FISM di Padova, per il suo intervento. L'appuntamento con il mondo della scuola, come sempre, fra 15 giorni. La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola.